nonna Aurelia aveva altre due figlie, Onelia e Liliana, che insieme a mia madre aveva custodito il giardino durante l'ultimo conflitto mondiale, cosa per la quale le aveva valso la medaglia d'oro al valore civile, riconoscenza dell'intera comunità locale, dimenticata molto presto. Il marito di Aurelia, Olinto, era morto prima della guerra per una banale polmonite. Mio padre Remo era subentrato al termine della guerra per quella strana serie di eventi che, intrecciati tra loro, costruiscono la trama della vita di ciascuno di noi. Remo, mentre tornava su al nord a coltivare la terra dei propri genitori, inciampò in una tappa di viaggio in Toscana che poco dopo si trasformò nella meta della sua vita. Incontrò contemporaneamente amore, lavoro, casa e nuova famiglia. Non si fece scrupoli in nessuno dei casi, sposò Bianca, prese possesso del nuovo lavoro che in parte gli ricordava quello precedente, in fin dei conti aveva sempre a che fare con la terra e, dopo le poche ma fondamentali istruzioni di nonna Aurelia, cominciò una nuova vita. In quel giardino e nel paese si fece ben volere da tutti, grazie anche al suo carattere riservato, ma bonario. Molti, per mostrare il loro livello di rispetto, gli ricordavano spesso quanto fosse fortunato ad avere un lavoro che non morirà mai, ed immediatamente gli chiedevano la cortesia di depositare dei fiori ai loro cari o di prendersi cura dei loro appartamenti, perché impossibilitati a farli visita in prima persona. Remo non si pentì mai di aver colto quella opportunità offertagli dall'incontro con Bianca. Si addentrò subito al giardino, come se non avesse fatto altro in vita sua, e se fosse naturale campare la propria famiglia in quel posto. La monotonia di quel lavoro non la sentì mai. Così io e i miei fratelli avevamo aperto gli occhi in quella piccola parte di mondo che solo apparentemente sembrava che avesse molto poco in comune con le restanti porzioni di mondo. Era normale che mio fratello mi avesse insegnato come scovare le lucertole sotto le piccole lapidi delle tombe dedicate alle suore. Era normale sentire la fiaba del guanto nero che vagava di notte alla ricerca della defunta padrona e non quella della piccola fiammiferaia o di Cenerentola. Era ovvio che le mie sorelle mi insegnassero a ballare sulle melodie di Rita Pavone, Gianni Morandi, Caterina Caselli, sul palco della Cappella Centrale. E soprattutto era ancora più ovvio che a mio padre, per sfuggire alla calura estiva, era solito coricarsi nei loculi liberi dove affermava che si riposasse benissimo. La mia visione del mondo non era limitata né stravolta dal giardino, perché mi appassionavo talmente tanto ai film di fantascienza trasmessi in TV da ricavare un giudizio obiettivo e reale sul mio mondo e quello di fuori dal giardino. Un pomeriggio arrivò Marco. Gli corsi incontro perché volevo raccontargli il film visto poche sere prima. La vita futura nel 2000, guerra o pace? Un vecchissimo film inglese che mi aveva letteralmente rapito. Ma il mio entusiasmo si scontrò con quello di Marco perché voleva parlare a Remo per proporre la realizzazione di uno spettacolo teatrale nel giardino. Marco era talmente rapito dalla sua idea di realizzare uno spettacolo teatrale nel cimitero che non sembrava più lui. Neppure Graziella sembrava turbarlo come sempre. Marco coltivava la passione del teatro, gestendo un piccolo gruppo di attori amatoriali del paese e dopo aver visto in città uno strano film tratto dal testo teatrale di Oscar Wilde, gli era nata questa idea bizzarra che il luogo deputato per eccellenza per la messa in scena di quel testo fosse il nostro giardino e come palcoscenico principale la Cappella Centrale. Aveva già disegnato alcuni bozzetti della scenografia naturale dello spettacolo, utilizzando le luci naturali del giardino di notte con una semplice aggiunta di un grande velo di tul viola per celare le lapidi delle pareti laterali della cappella. L'allestimento scenografico era fatto, era il naturale luogo per rappresentare quel dramma. Marco parlò con Remo, il quale non smetteva di scuotere la testa ad ogni frase che pronunciava, ma era talmente l'entusiasmo di Marco che contaminò tutta la famiglia. La nonna cercava di convincere Remo dicendogli che l'idea assurda di Marco era possibile, perché lei in 50 anni aveva visti altri tipi di dramma in quel giardino e Salomè avrebbe dato finalmente un senso diverso a quel luogo, un senso reale di vita. Remo accettò di parlarne con l'ispettore dell'arciconfraternita, ma era ancora molto scettico. Senza attendere l'esito del colloquio con l'ispettore, Marco cominciò ad organizzare le prove e distribuire ruoli e mansioni a tutti noi. Graziella, accantonando le consuete ritrosie dimostrate nei confronti di Marco, si era resa disponibile nel ruolo di protagonista, improvvisandosi attrice di grande esperienza. Anche Insino decise che avrebbe partecipato in qualche modo all'evento. Gabriella era diventata la costumista. Andrea, dopo un'esitazione iniziale, si rese disponibile come tecnico e aiuto regista. Bianca e Aurelia erano diventate le promoter dell'evento, ma il nostro regista voleva fare tutto in modo professionale ed organizzò un calendario per le prove da fare esclusivamente in notturna, a cancelli chiusi, lontano da occhi indiscreti e senza rischiare di urtare la suscettibilità dei visitatori. Thank you.